Radio Monte Carlo, questo era Neffa, lontano dal tuo sole, un altro singolo da Sognando Contromano. E adesso andiamo a raggiungere telefonicamente Jumana Haddad, che è una scrittrice libanese che salutiamo. Buonasera Jumana. Buonasera. Tu parli l'italiano splendidamente. Come mai? Grazie, lo spero. È un mistero, non lo so, credo è perché da qualche parte c'ho un cuore italiano, perché ho studiato praticamente solo per 2 settimane, quasi 20 anni fa, e poi ho dovuto smettere perché è scattato un altro episodio di guerra a Beirut, e poi ho continuato un po' da sola, leggendo, ascoltando canzoni, e a un certo punto, arrivando in Italia 5 anni dopo, ho scoperto che lo parlavo, quindi è un po' un miracolo, diciamo. Allora, diciamo subito che Jumana sarà ospite tra poco sulla 7 all'Infedele con Gad Lerner, e domani alla libreria Feltrinelli di via Manzoni alle 18 sarai insieme a Gad Lerner per presentare questo tuo romanzo intitolato Il ritorno di Lilith, che esce per l'Asino d'Oro. Allora, chi è Lilith? Ho verificato, si tratta di una figura mitologica, no? È la donna che porta sventura, una suocera, insomma. No, non è vero, questa è una cospirazione, ma dovrei dire all'inizio che non si tratta di un romanzo. Il ritorno di Lilith è un libro di poesia. Io parlo di questa donna che esisteva prima di Eva, era la donna, una donna forte, emancipata, libera, che a un certo punto ne ha avuto abbastanza del paradiso e di dover obbedire ciecamente all'uomo, perché lei è stata fatta dalla terra così come Adamo, non era una costola, e quindi quando se n'è andata Dio creò la seconda donna, una copia pallida dell'essenza femminile, che si chiama Eva, e l'ha fatta dalla costola di Adamo per garantire questa volta la sua obbedienza, perché è una parte del tutto maschile. Quindi quando io parlo di Lilith racconto anche un po' la mia storia personale, ma anche la mia visione dell'essenza della donna, che dovrebbe essere sin dall'inizio, senza nemmeno aver bisogno di chiedere qualsiasi cosa, uguale all'uomo e complice dell'uomo. Jumana Haddad, come sentite, parla perfettamente l'italiano e dirige in Libano una rivista in lingua araba che si intitola Il Corpo, Hasad? Jasad. Jasad. Allora, la rivista Jasad è una rivista culturale dove celebriamo il corpo e facciamo delle riflessioni sul corpo nel mondo arabo, sulle arti, letterature, scienze del corpo. E ho sentito il bisogno di fare questa rivista perché siccome nel nostro mondo ci sono ormai tanti tabù legati a questo tema che non c'erano prima, perché quando uno va a quello che era scritto più di 1000 anni prima, si parlava del corpo nella letteratura araba con una libertà fantastica. E poi nella nostra storia contemporanea purtroppo si è perduta questa libertà, e ho voluto fare questa rivista un po' per rivendicare questo nostro diritto a parlare di tutti questi temi. Molto interessante. C'è da aggiungere che Jumana Haddad è una bellissima donna e tutt'altro che velata. Tutt'altro che velata, non so, bellissima non so, ma tutt'altro che velata sì, questo è certo. La potrete incontrare se siete a Milano domani sera alla libreria Feltrinelli di via Manzoni a partire dalle 18 con Gad Lerner, che presenta il suo libro di poesie intitolato Il ritorno di Lilith. Grazie a Jumana Haddad. Grazie, arrivederci. Anteprima News su Radio Monte Carlo.